l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa in diretta da Radio 24, il nostro viaggio settimanale in collaborazione con il network Euronet per vivere, per scoprire, per toccare l'Europa, per contaminarci, partendo dalle storie di persone che l'Europa la conoscono, l'hanno vissuta, la vivono e cercano anche di esportarla, perché la cultura europea si può esportare proprio tra l'incontro anche di nazioni. Oggi vi daremo una testimonianza di cosa si possa far nascere, appunto, giocando un po' con l'Europa, e lo facciamo partendo da un festival che si sta svolgendo in questi giorni qui a Milano, anche se il programma è lungo e lo scopriremo insieme, che si chiama Ragnarok Nordic Festival, un festival che promuove in Italia una cultura sostenibile, una nuova cultura, partendo appunto dalle nazioni nordiche, dagli spunti che ci possono arrivare da lassù. E lo facciamo con in studio Marco Germinario, che è l'ideatore del festival. Ciao Marco. Ciao. Italianissimo, però hai vissuto 10 anni in Danimarca, a Copenaghen. Perché? Perché avevo voglia di fare un'esperienza all'estero. A Milano non mi trovavo benissimo, volevo essere indipendente, e da studente a Milano è molto difficile essere indipendente finanziariamente, perché è difficile anche trovare lavoro. Allora ho avuto questa occasione di andare a Copenaghen a trovare la mia ex ragazza, e ho visto che lì gli studenti hanno, è molto facile trovare un lavoro extra universitario. Quindi sono andato così, e poi lì ho fatto di tutto, da tutti i lavori da studente, sono riuscito a mantenermi da solo e sono entrato in contatto con una realtà completamente differente, una lingua completamente differente, da cui ho imparato molto. E ti sei laureato in? In fisica nucleare. Ah, ok, quindi una laurea facile. E quando dici ho fatto tutti i lavori, cioè cosa significa? Che si può campare facendo cosa, per esempio? Beh, sono andato per gradi. Il primo lavoro sono andato a raccogliere le bottiglie di birra durante i concerti, perché in Danimarca per ogni bottiglia di birra ti danno 30-40 centesimi. Okay. Poi un po' alla volta sono cresciuto, ho fatto da cavia agli ospedali. In che senso, scusa? In sostanza mi davano una palla da tennis da stringere e con l'ecografia mi misuravano la contrazione muscolare. È una cosa tipica, insomma, per... Ci sono altri studenti che fanno molto peggio. Non, insomma, vogliamo entrare nello specifico. E comunque, insomma, ti sei immerso in questa cultura danese, però da lì ti sei allargato, nel senso che hai scoperto tutta la cultura nordica e hai cercato di portarla qui in Italia, e ti sei inventato questo festival. Sì, sì, perché ho visto un grande interesse dal punto di vista dei nordici per l'Italia e viceversa. Ho visto tantissime caratteristiche positive da cui gli italiani potrebbero imparare e viceversa. Quindi ho creato un'associazione non profit che prova a portare questa nuova ispirazione all'Italia attraverso la cultura, attraverso la politica, attraverso la musica e attraverso l'arte in generale. Quindi questo è proprio un... Mm-hmm. Si chiama Anna Tuomela, 23 anni, questa giovane cantautrice finlandese, ed è qua in studio con noi. Ciao Anna. Ciao, ciao. No, non credo tu sia la vincitrice di nessun X Factor in giro per l'Europa? No. Ok. E sei... di dove sei? Di Helsinki. Ah, sei proprio della capitale e sei qui a Milano perché? Sto studiando qui al Conservatorio di Milano, pianoforte, quest'anno, e vediamo cosa succede l'anno prossimo, non lo so ancora. Ok, ma è il tuo primo concerto, l'hai già fatto in questi giorni, o quando è in programma il concerto di Anna? Questa sera. Ah, questa sera? Sì, questa sera a Parco Sempione. Ed è la tua prima esibizione qui in Italia? Ho già fatto un paio di piccole concerti, ma questo è il più grande che... Mm-hmm. Ma in Finlandia sei famosa? Cioè sei già conosciuta o sei un emergente? Emergente, okay. In Finlandia anche. E stai facendo l'Erasmus? Sì. Anche tu appartieni a questa generazione Erasmus. Sei a Milano da quanto? Da settembre. Ok, quindi sono già passati un po' di mesi. E sì. Ecco, insomma, parleremo di questo incontro, confronto tra culture diverse. Come siamo noi italiani visti da una finlandese? Italiani sono molto simpatici, aperti... amano scherzare e molto creativi. Ok, qui siamo con i pregi, partiamo anche con i difetti. Poi l'altro lato di essere creativo è l'indisciplina. Stava guardando il suo fidanzato mentre diceva questa cosa, vi dico solo questo. Allora, complimenti, tra l'altro hai portato la chitarra, perché faremo musica dal vivo qui negli studi di Radio 24 dell'Altra Europa. Questo è il festival Ragnarok. Ragnarok cosa significa? Ragnarok senza C rappresenta l'apocalisse nella mitologia nordica. Sono gli scontri, è lo scontro tra gli dei e giganti, morti, quindi il caos, la distruzione del mondo per una rinascita di un mondo migliore e di nuova ispirazione, in sostanza. Quindi questo si rapporta allo scontro tra due culture differenti, italiana e nordica, quindi grande caos, però speriamo una nascita di una nuova ispirazione. Un grande caos creativo, l'altra Europa, @radio24.it per le vostre mail, per chi invece volesse intervenire in diretta via sms 349-238-6666. Adesso le informazioni sul traffico. L'altra Europa. Questa è l'altra Europa. Oggi stiamo parlando di Ragnarok. www.ragnarok.eu è il sito ufficiale per conoscere tutto il programma, ma al di là della manifestazione ci piace andare oltre, capire cosa vuol dire questa nuova cultura nordica, questa nuova cultura sostenibile. Scusate. Con noi Marco Germinario. Marco, è sostenibile perché e soprattutto come l'hai vissuto sulla tua pelle questa attenzione all'ambiente e come stai cercando di portare questa sensibilità qua in Italia? Beh, un esempio molto lampante è stato che mentre vivevo in un collegio di studenti a Copenaghen, in mezzo a 20, abbiamo una grande cucina in comune, ogni volta che aprivo l'acqua, per esempio del rubinetto, mi giravo, dopo un secondo e mezzo mi rigiravo e c'era qualcuno che mi ha chiuso l'acqua. Io con la mia educazione italiana pensavo che fossero noiosi, pensavo che fossero fissati su questa cosa, oppure spegnevano la luce immediatamente quando uscivo, mi rimproveravano in sostanza. Ci ho messo 2 anni a capire che effettivamente uno spreco di, cioè l'acqua è uno dei beni che manca più nel mondo, insomma, quindi a diventare io stesso responsabile. Sono quindi stato influenzato dall'ambiente in cui mi trovavo, quindi ho capito che loro fin da piccoli hanno una fortissima educazione civile, vedo che anche mi conferma annuendo. Quindi io ho provato a trasmettere questa cosa in qualche modo, non dicendo ovviamente fate così, lo fanno così. L'abbiamo trasmesso in maniera un po' teorica, in maniera un po' pratica. In maniera teorica, per esempio, mi ha invitato dei politici nordici, proprio rappresentanti dal primo ministro danese, per incontrare i politici italiani per creare una discussione sul tema. Però anche pratica, per esempio, abbiamo l'anno scorso in piazza Mercanti, in piazza Duomo, insieme alla Lego, ci ha dato 50.000 pezzi Lego, sì. Li abbiamo messi a disposizione di bambini, giovani e adulti a costruire le loro città ideali. Quindi abbiamo sentito l'opinione anche dei giovani, dei ragazzi. Quest'anno al Parco Sempione, in Piazza del Cannone, oggi e domani, stiamo facendo creando un villaggio sostenibile in cui di nuovo indirettamente si danno un po' queste nozioni attraverso il gioco, attraverso l'interazione. E un'altra difficoltà, per esempio, stampando il materiale, abbiamo provato a stampare tutto il materiale Ragnarok in carta riciclabile, sostenibile. È stato difficilissimo, è stato difficile innanzitutto trovare in poco tempo dei rivenditori di questo tipo di carta, e poi costava tanto, ma ci hanno detto non perché per la qualità, ma perché c'era poca richiesta, quindi dovevano ordinarlo. Ok, insomma sono piccoli semi che state tentando di gettare per andare al di là del folklore, che credo sia fondamentale quando si fanno queste attività di incroci culturali. Abbandoniamo per un attimo i paesi nordici ed entriamo anche noi in clima mondiale. Ebbene sì, è l'inno della Slovacchia e l'avevamo conosciuto con un paio di settimane in anticipo, perché l'avevamo detto, loro per la prima volta partecipano ai mondiali. Ci avevamo anche scherzato su, avevamo fatto qualche facile battuta, ma sì, tentate di giocare, tentate di portare il vostro calcio ai mondiali, ma chissà. E invece con noi c'è Marek Hlavenka, con cui avevamo parlato 2 settimane fa. Ciao Marek. Ciao a tutti. Cos'è questa voce sommessa? Che grazie per la solidarietà. Marek, ma cosa avete combinato? Infatti abbiamo fatto una partita dal mio punto di vista molto molto carina. Molto carina. Combattuta con tanti gol, divertente. Sì. Ed è finita molto molto bene. Anzi, più bene di questo non me la potrei nemmeno immaginare. Certo. Marek, tu sei in Italia, tra l'altro, in questi giorni, vero? Sì, precisamente. Io la partita l'ho vissuta in Italia, a Levanto precisamente, quindi non ho ancora visto cosa è successo a casa mia, tutta Bratislava sicuramente in festa, eccetera, però io l'ho vissuta dall'altra parte qui in Italia, Slovendomela lo stesso. Adesso scusa, vorrei contestualizzarti, nel senso tu eri l'unico slovacco in Liguria, immagino? Un bar sulla spiaggia sicuramente. Perfetto, e lo hai detto che eri uno slovacco o sei rimasto nascosto in un angolino? diciamo che pian piano, non potevo fare più di tanto, non volevo. Quindi al terzo gol lo hanno scoperto che eri slovacco. Sì. Dopo l'hanno scoperto perché ero rimasto l'unico al bar che davvero sorrideva e beveva una birra dopo l'altra, quindi... Credo che se la potevano immaginare, sì. Lo credo anch'io. Ma hai telefonato a qualche tuo amico in Slovacchia? Cioè, qual è stato il commento più diffuso? Merito vostro? Sì, ovviamente ho sentito tanti amici, genitori, eccetera. E credo una cosa che davvero era comune tra tutti era che non era una partita, diciamo, un gol a caso al 90esimo, ma tutti dicevano abbiamo giocato davvero bene. Abbiamo segnato 3 gol all'Italia, che non succede credo da tanti anni. Sì. E che era una partita davvero meritata da parte nostra, quello che si diceva, che è importante. Ho capito, quindi ci credete, cioè continuerà ancora per molto il campionato della Slovacchia? Io spero tanto. Okay. Una volta quando si battono i campioni mondiali, oppure Italia che può giocare male o quello, però sempre per noi è un paragone molto molto alto, come dire, sono sempre, Italia è uno dei migliori, può giocare bene o male, quindi adesso siamo passati con Italia, quindi vedremo, Olanda sarà la prossima, speriamo. Sai che comunque c'è un risultato importante legato a questa partita, molti italiani adesso sanno dov'è la Slovacchia. Sì, l'ho visto. Perché sulla Rai una trasmissione dove era in diretta da Roma, dove dicevano, chiedevano alla gente comune per strada così, e tanti probabilmente ancora stanno pensando a Cecoslovacchia quando era, quindi con la capitale a Praga, e adesso speriamo che questa partita aiuti un po' a attualizzare, o come chiamarlo. Sì, ma noi abbiamo perso proprio per questo, perché volevamo fare una nuova cultura europea, capito? Okay. Marek, grazie davvero. So che oggi sei a un matrimonio di un amico? Sì, una mia amica si sposa qui a Levanto, quindi sono venuto per fare sia le vacanze sia parte di questa bellissima festa sua. È il tuo primo matrimonio in Italia o ne hai già visti altri? Sì. Io ho vissuto in Italia 7 anni, però è il primo matrimonio che vivrò da ospite così. In Italia, sì. Buona festa allora. Grazie mille. Ciao Marek, buon sabato. Questa è l'Altra Europa. Ciao. Europost-it. Vienna, la città dei ciclisti. La capitale europea si sta attrezzando sempre di più per offrire a chi sceglie di andare in bici soluzioni pratiche al passo coi tempi. C'è infatti un vero e proprio quartiere che si chiama Bike City, nel quale la metà dei parcheggi è riservata alle bici e gli ascensori sono grandi abbastanza per farci entrare la bicicletta. E sempre a Vienna è nato un complesso di 244 appartamenti abitati esclusivamente da chi non possiede auto e motorini. E negli spazi rubati al garage c'è un parco, una lavanderia e anche una sauna. L'altra Europa @radio24.it, se volete farvi vivi in diretta o se volete segnalarci nuove storie, nuove iniziative legate all'Europa, oppure via SMS al 349 238 6666. Parliamo di bicicletta, come ci ha segnalato questo Europost-it, che ahimè, insomma, la bicicletta è uno dei mezzi più antichi, però segna già una bella differenza tra culture. Tu a Copenaghen, per esempio, tu sei di Milano, no? Giri in bicicletta per Milano? No, poco, pochissimo. A Copenaghen invece era invece sempre. Il mio unico mezzo di locomozione, come di tantissimi altri, ma anche adulti. Sì. Ci sono famiglie che non hanno la macchina. Infatti la cosa bellissima di Copenaghen è che è piena di piste ciclabili, è una cosa stupenda. E per te, Anna, com'è questo impatto? Tu anche sei abituata, immagino? Sì, anche noi abbiamo tante piste ciclabili. Sì. E anch'io giro sempre con la bici, quando non c'è la neve. Ma qua purtroppo in Italia andrei volentieri con la bici, ma sinceramente mi fa un po' paura il traffico e non c'ho voglia di andare in mezzo delle macchine. Ok, allora la qualità della vita sembra più alta a Helsinki che a Milano, almeno da quello che racconti, però poi ti trovi bene a Milano. Prima ti ho chiesto, ma tornerai a casa? E mi hai detto boh, nel senso che non credo che sia solo per il fidanzato, cioè ci sono anche cose... Sì, mi piace vivere in Italia, mi piace questa atmosfera molto almeno più aperta che c'è in Finlandia, mm-hmm. secondo me. Ma non penso che la vita sia, come hai detto prima, la qualità della vita sì, migliore o peggiore, no? Sì, no, è solo diversa, sono due mondi diversi e non posso generalizzare sì, così tanto che sarebbe meglio lì o meglio qui, è solo che in questo momento mi piace vedere, imparare qualcosa di nuovo. Mm-hmm. E dal punto di vista scolastico, tu stai studiando qua pianoforte, sì, e trovi competenze maggiori, migliori o diverse rispetto a... Diverse, quelle... sì. Per l'educazione musicale, visto che non c'è la cultura per l'educazione musicale così tanto in Italia che da noi, proprio l'educazione musicale non lo studierei in mm-hmm. Italia. Però i solisti e soprattutto i cantanti, il livello del canto lirico è bellissimo, sono bravissimi qui in Italia. Ma Marco, canti anche tu, no? No, volevo dire, fare un avvertimento, attenzione se andate a Copenaghen, non camminate sulle piste ciclabili, perché ti investono, perché sì, c'è quel rispetto delle leggi che se tu cammini in un posto dove non è consentito dalla legge, loro hanno tutti i diritti a venirti addosso perché non rispetti le leggi. Quindi c'è questa contrapposizione, no? Che sono una società eccezionale perché funziona rispetto alle leggi, però insomma a volte può essere anche un po' rigido, ecco. Sì, sì, sì, assolutamente. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, ancora l'altra Europa. Lei, Anna, è Tuomela, quella che stiamo ascoltando di sottofondo qua con noi in studio, canterà dal vivo e anche lei è in programma nei concerti e di questo festival nordico che si sta tenendo a Milano, festival però non solo di musica ma di contaminazioni varie, festival ideato da Marco Germinario che insieme ad alcuni amici da anni cerca di portare la cultura nordica a Milano. E Marco, proprio velocissimamente, cosa succederà tra oggi e domani? Sì, è già cominciato in Piazza del Cannone, al Parco Sempione, avremo un villaggio nordico dove bambini e adulti potranno giocare con la Lego, avremo delle letture da parte di alcuni e presentazioni di editori e di letteratura nordica, sia per adulti che per bambini, ci sarà pure uno scrittore nordico a parlare, Westerman, siete invitati all'aperitivo delle 7 gratuito con il salmone norvegese, che potrete assaggiare. Ci piace, sì. Ci sarà anche una lotteria, ci sono in palio 3 viaggi per una destinazione di una capitale nordica a scelta e poi alle 7:30 comincerà Anna Tuomela che ti aprirà il festival. Benvenuti. E poi ecco le band, poi ci susseguiranno, ci sarà una cantatrice norvegese e poi ci sarà i Power Solo che sono una band norvegese rock e tara molto forte, concludersi con New New, 9 islandesi e per un after party a Rocket con 17 nordici. www.ragnarocket.eu per conoscere l'intero programma. Ma cambiamo completamente ambito europeo e andiamo in Grecia. La notizia è di ieri, insomma la crisi economica che sta attanagliando la Grecia la conosciamo bene. Tra le soluzioni più creative è uscita questa notizia che appunto il governo pare abbia deciso di mettere in vendita le isole, alcune isole, le più economiche a 2 milioni di euro, quindi insomma una cifra per noi inimmaginabile, però per alcuni benestanti può essere una cifra anche piccola in cambio di un'isola, scusate. Volevamo capire quello che sta succedendo in Grecia, anche perché ieri per esempio un bel reportage sul Venerdì di Repubblica parlava di questa estate nera della crisi, con i turisti sì attirati dagli sconti ma spaventati da quello che sta accadendo. C'è invece chi in Grecia ha scelto di andarci a vivere abbandonando Roma, abbandonando la capitale, per aprire proprio una piccola attività turistica in un'isola a Creta in particolare, e quindi buttandosi là dove c'è la crisi. Lei ha detto: io posso fare un piccolo business, mettendo soprattutto l'accento sulla qualità della vita. Diamo il benvenuto a Roberta Anicucci. Ciao Roberta. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Dalla Grecia, da questa Grecia in una crisi pazzesca. Allora intanto contestualizziamoci, tu sei a Camilano? Io sono a Creta, okay. Nella parte sud di Creta. Sì. quindi fa caldissimo. Sono dalla parte dell'Africa in pratica, con spiagge bellissime e con dei paesini piccoli che come camillari hanno una qualità della vita completamente diversa da quella a cui siamo abituati in Italia, soprattutto nelle grandi città. Ci sono realtà qui che sono veramente difficili anche da immaginare per un italiano. Ci credo. E tu sei romana, da quanti anni vivi lì? Io vivo a Creta da 7 anni, di cui 4 in questa zona, e prima ne avevo vissuti 3 a Chania, che è una città bellissima, però ancora per me era troppo città, cioè c'era ancora troppo traffico. Invece qui dove sono adesso, bah, andiamo in giro in bicicletta, andiamo in giro a piedi, andiamo in giro con l'asino, insomma un'altra realtà veramente. Ho fatto un po' di passi piano piano per arrivare qui, prima ero stato a Salonicco, poi a Chania e poi finalmente in questa parte qui di Creta. Noi abbiamo trovato la tua storia sul sito vogliovivere.com, che raccoglie un po' di storie di italiani che hanno scelto di cambiare vita. Cosa ha spinto a te questo cambiamento? Ma non ne potevo più, come dico anche nel testo che ho scritto che avete letto su internet, non ne potevo più di una situazione in cui praticamente sembra che lo stress sia la normalità e che quindi allo stress la soluzione è andare da uno psicanalista. No, non è così, cioè si può vivere anche molto meglio in situazioni più umane, riscoprendo alcuni valori come sono l'amicizia, il contatto personale con chi ti sta vicino, insomma di non essere fagocitati dalla grande città, dal traffico, dai ritmi, da questa angoscia del fare, fare, fare, e poi quindi subirne le conseguenze sul piano emotivo, sul piano psicologico. Insomma, si può vivere anche in altro modo. Sei venuta in vacanza e? Sì, mi sono innamorata della Grecia prima, sì. E poi girando varie isole della Grecia, vari posti, per cercare quello che mi piaceva veramente di più in Grecia e per cercare anche di capire che cosa c'era di negativo e se ero in grado di affrontarlo, in questo itinerario ho conosciuto anche mio marito. Un greco, che però aveva fatto l'iscrizione all'università a Roma, e quindi avevamo dei sogni in comune. Finito l'esperienza italiana, siamo ritornati qui, un po' tutti e due un po' come stranieri, perché anche lui praticamente è diventato adulto in Italia all'università, però insomma. Ecco, ed è difficile vivere da stranieri in un villaggio così piccolo come quello che avete scelto voi? No, è più difficile vivere da stranieri in una situazione intermedia, ad esempio una città come Iraklio, una città come Chania crea problemi, mentre il piccolo villaggio, soprattutto in una Grecia che da sempre ha una tradizione turistica con grande influenza da parte di turisti stranieri da tutto il mondo, nel piccolo paese, nel piccolo villaggio trovi un'apertura mentale, una serenità che ti aiuta. Cioè ti guardano veramente di buon occhio, soprattutto personaggi di alcuni paesi, cioè guardano meglio l'italiano o il belga o l'olandese piuttosto che magari il tedesco, dove c'è ancora questa tradizione, un po' di diffidenza. Però comunque qui dove vivo io ci sono anche tanti tedeschi che si sono trasferiti definitivamente. Come ti dicevo, conta molto il rapporto personale. L'essere seduti nel caffennio, nel bar del paese, lo scambiare 4 chiacchiere ti dà la possibilità di presentarti per quello che sei come persona, quindi certo. Ti passa sopra il fatto che sei straniero. Infatti in questo programma cerchiamo appunto di portare una nuova cultura fatta dalla contaminazione, soprattutto che tu stai vivendo quotidianamente, perché stai cercando proprio questo incontro, questo incrocio di culture. Non stai certo a fare l'italiana lì in Grecia, credo. No, dell'essere italiana mi porto soltanto alcune piccole cose che penso che siano buone e che vengono anche ben accettate. Non so, il gusto italiano è molto stimato, quindi se qualcuno si deve sistemare la casa mi viene a chiedere che colore dipingo il muro, come faccio l'esterno, fammi un disegno, per esempio. Con un'altra amica italiana abbiamo dipinto l'interno della scuola elementare del paese dove ci troviamo, che è un paese piccolo, ci sono 60 bambini nella scuola, però la scuola è diventata carinissima, siamo usciti con le foto sui giornali locali come esempio di un giusto cammino, cioè una sensibilità in più che portiamo, non ci scontriamo mai con la nostra cultura, anzi la nostra diventa un po' anche quella del posto. Roberto, invece parliamo di crisi vista dal di dentro, anche voi la vivete, ci sono queste ripercussioni nella vostra quotidianità? Sì. La viviamo perché comunque soprattutto Creta, ma un po' tutta la Grecia, vivendo di turismo, nel momento in cui si fa una così cattiva pubblicità della Grecia all'estero, e i turisti si spaventano o vedono la situazione qui catastrofica, diffidano del venire in vacanza e quindi ovviamente ne risentiamo tutti, perché viviamo tutti quanti dal turismo, dalle persone che vengono qui per passare le loro vacanze, e quindi portano anche soldi perché acquistano dal souvenir all'abitare in un albergo. Ma è vero, scusa, che lì nel tuo villaggio anche il sacerdote affitta la canonica ai turisti? Non affitta la canonica, affitta una casa che lui ha costruito pietra per pietra con le sue mani, trasportando a dorso di mulo le pietre dai vari campi intorno al campo in cui lui aveva la possibilità di costruire. Fantastico. Ed è una casa che fino a quest'anno non aveva né acqua corrente né luce elettrica, ma veniva abitata tutte le estati da turisti. Ok. Che si sono lamentati perché quest'anno ha fatto in modo di avere l'allaccio elettrico, tra parentesi. E concludendo, Roberta, non so, insieme al tuo compagno state già facendo questa colletta per acquistare un'isola, è vero o è una bufala? No, è una grande bufala. E tra l'altro il governo greco si è anche un bel po' risentito. Di questa mattina le notizie sui giornali greci, per cui è stato chiesto da un rappresentante del governo, è stato richiesto al quotidiano inglese di rivedere completamente quello che è uscito addirittura nella prima pagina e di pubblicare ufficialmente una smentita, okay. Perché questo, oltre che essere una notizia infondata e quindi non dovrebbe un giornale serio proporre cose del genere, oltretutto provoca ancora altri problemi, perché continua a dare un'immagine della Grecia di disperazione, cioè la Grecia è disperata, vende addirittura i suoi territori. In realtà non è vero assolutamente nulla, c'è solo un'isola greca che è in vendita da molti anni, è complicato spiegarvi perché e per come, ma comunque è un'isola dello Ionio e costa 15 milioni di euro. Ho capito. Da anni è in vendita ma nessuno l'acquista. Sì. Le altre isole non abitate della Grecia, che sono a volte anche soltanto un semplice sasso in mezzo al mare, sì. E dubito che anche avendoli qualcuno decidesse di comprarsi un sasso in mezzo al mare per 2 milioni di euro. Penso anch'io. Roberta, è bello metterci sopra l'ombrellone e lo sdraio, però non vale la pena, insomma. Roberta, grazie davvero per la tua testimonianza. Rimaniamo in contatto però, e magari nelle prossime puntate ci risentiamo e ci racconti. Ma sì, ma venite in vacanza in Grecia. Adesso guarda, perché mi no? Mi ha fatto venire un po' di voglia. Sì, guarda, mi hanno appena invitato in Finlandia e credo che fra pochissimo mi inviteranno in Germania, però mi organizzerò, perché può essere anche un risvolto che non avevo considerato nel condurre questo programma. Ciao Roberta, grazie davvero, buon sabato. Oh, ringrazio tantissimo voi e veramente complimenti per la splendida trasmissione. Grazie, ciao Roberta. Europost-it. Com'è diventato il femminismo del XXI secolo? È il tema del concorso fotografico inventato dalla European Women's Lobby. Il concorso è rivolto a giovani donne europee con meno di 40 anni. Le fotografie devono rappresentare in modo creativo punti di vista forti sul femminismo contemporaneo. I contributi migliori verranno presentati poi in una mostra. Ci sono ancora pochi giorni per partecipare, c'è tempo fino al 30 giugno. Per informazione, womenlobby.org. L'altra Europa. Eccoci qua, e mentre Anna prepara la chitarra, ci immergeremo ancora in questa cultura nordica. Facciamo un salto in Germania, perché su caffebabel.com, questo portale che è una sorta di rassegna stampa europea, abbiamo trovato un pezzo molto interessante intitolato Curve in Europa. Se la moda dice stop alle modelle taglia zero, cosa è successo? È successo che la rivista Brigitte, che è un mensile, uno dei a tiratura più alta in Germania, ha scelto di non fotografare più modelle ma fotografare le lettrici, appunto una sorta di protesta per andare un po' controcorrente. Basta sempre solo le modelle che portano un'immagine falsificata della realtà. Per capire come le lettrici hanno preso questa decisione, abbiamo convocato una lettrice. Lei lavora in un call center per clienti italiani. Diamo il benvenuto a Gabrielle Britz. Ciao Gabrielle. Ciao Federico, ciao Italia, buongiorno Italia. Grazie, ma com'è lavorare in un call center per clienti italiani? Perché purtroppo la situazione di trovare un lavoro meglio, sì, non, è abbastanza difficile a Berlino, anche se la capitale è una città povera, quindi è difficile di trovare, okay, ma però, un altro lavoro, ecco, e quindi una bella esperienza pure, no? Cioè, ci credo. E com'è l'italiano al telefono? Uno scocciatore? All'inizio avevo proprio paura, non sapevo se capisco i dialetti, se capisco che vogliono, ma pian piano me ne accorgo che forse sarebbe più difficile per un italiano capire le dialette sì. tedesche. Quindi sono abbastanza gentile quindi... e riesci a risolvere ogni problema? Questo è il problema, no? La lingua non è il problema, il problema sono diversi, purtroppo, sì. Insomma, è bello. Poi magari torniamo anche con te in una delle prossime puntate a capire, perché anche nel call center, comunque, che fa parte della nostra cultura contemporanea, da un call center si possono capire tante cose di una nazione. Però, Gabriel, parliamo di questa scelta di Brigitte. Come l'avete presa voi lettrici? Vi piace l'idea di essere raffigurate in copertina e basta con queste solite modelle? Allora, prima della prima edizione di questo tipo senza modelli c'era grande pubblicità ovunque in città, quindi ero molto curiosa. Ho comprato questa prima edizione, poi ho guardato e mi ho pensato, ma come dov'è la differenza? Quindi a me non risultava un grande sì. cambiamento, no? Perché hanno preso lettrici belle come le modelle. Sì, senza questa, se non avessi sentito prima che fanno questo senza modelli, forse non me ne sono accorta, non lo so. Cioè, quindi insomma è stata un po' più che altro una mossa pubblicitaria. Ma a te capita di sfogliare anche riviste italiane? Nel senso di raro. Cioè, nelle riviste... Perché io non sono proprio la Brigitte è forse l'unica rivista che a volte compro. Io non sono una lettrice di queste riviste tipiche per le donne, quindi la moda a me non interessa tanto. E quindi perché comunque in Italia c'è insomma uno sfruttamento a volte vergognoso dell'immagine delle donne in televisione e anche sulla carta stampata. Sì. La stessa cosa in Germania o c'è un po' più di attenzione? Un po' sì, ma a me pare che in Italia è peggio la situazione, come le donne verranno guardate in pubblicità, secondo me, sì. Mm-hmm. Gabriel, grazie davvero per averci portato la tua testimonianza. Ti vedremo prossimamente in copertina su Brigitte. Chissà, probabilmente. Tra l'altro, insomma, più di 30.000 lettrici si sono proposte, quindi la cosa è comunque piaciuta, cioè l'idea di poter finire raffigurate. Ma hanno pure cominciato una discussione, quindi c'era una cosa molto importante, no? La prima parte di una situazione che speriamo che fra un po' si cambia davvero. Ok, insomma è stato un primo passo, vedremo. Esatto. Prendi appunti da qui alle prossime settimane sulle domande più strane che ti fanno gli italiani al call center, che ne riparleremo. Ciao e buon sabato, grazie. Ciao. E noi torniamo a palla qui con Ragnarok, il Festival Nordico. Marco, allora abbiamo pochissimi minuti, però qualche pillola tua per conoscere meglio questi nordici. Allora, qualche pillola che poi Anna mi confermerà o meno se è vero o no. Allora, uno per i curiosi, non è vero che c'è la più alta percentuale di suicidi al nord Europa. Era una cosa di 20 anni fa, adesso i danesi sono stimati come il popolo più felice al mondo, anche se pagano fino al 74% dei loro guadagni in tasse. Ok, però poi magari hanno i servizi, quindi sono felici. Infatti vedono quello che pagano in tasse. Per i turisti o per chi vuole vivere lì, non è vero che i nordici sono freddi o che sono arrabbiati come sembra un italiano. Loro aspettano di vedere il tuo interesse. Dato il clima freddo, non hanno energia da spendere per te, quindi dimostratevi interessati a loro e vedrete che vi accoglieranno. Confermi, Anna, se siete così? Sì, è vero, è vero. Quindi non siete freddi, siete in attesa. Sì. Non diamo... troppa confidenza prima. Poi vi scaldate dopo. Questo è dovuto anche alla loro onestà, secondo me, molto elevato, questa loro... quindi si impara molto anche in questo senso. Perfetto. Per i musicisti, esiste un conservatorio ritmico a Copenaghen, di livelli altissimi, uno dei migliori europei, gratuito, basta un grandissimo talento. Quindi se un italiano vuole gettarsi in questo, ovviamente deve avere un grande talento perché è difficile entrare, le spese dello Stato danese sono 100.000 euro all'anno per te, però se hai grande talento puoi entrare gratuitamente a livello europeo per questa cosa. Perfetto. E per concludere, il festival proseguirà anche a ottobre con una conferenza su Culture Futures, il ruolo dell'architettura e design nell'ambiente, una mostra di fotografia, una performance sulle strade di Milano. E volevo accennare al tema dell'anno prossimo, stiamo pensando di trattare il tema delle pari opportunità. Il modello nordico è molto forte. Anna, tu cosa ne pensi sulle pari opportunità in Italia? C'è bisogno secondo te o sulla situazione della donna? Allora, sta chiedendo la domanda di riserva, soprattutto perché si sta concentrando per la canzone, esatto, che deve fare. Però è sicuramente un tema importantissimo e insomma vogliamo esserci, quindi rimaniamo in rapporto. Finisco io con la domanda più scontata e più banale: ti sei fatto la foto con la sirenetta a Copenaghen? Cioè lì l'hai fatto l'italiano medio o hai evitato? Ho evitato, anche perché ogni tanto rubano la testa della sirenetta, così, quindi il periodo proprio che volevo farlo non c'era la testa, quindi ti ringraziamo per aver evitato la foto. Intanto un grazie a chi ha scritto con me la puntata, ad Alba Chiara Rondelli, ad Anita Panizza nella parte in redazione, a Peter Bescapè che si è divertito in regia. Vi ricordo l'altraeuropa@radio24.it se volete contattarci, se volete scriverci durante la settimana. E l'altra Europa, ci ritroviamo qua sabato prossimo come sempre alle 10. Ciao. We'll